Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Mercoledì 19 gennaio, buongiorno, bentornati o se siete nuovi, benvenuti su Liberi Dentro Eduradio TV, il programma che fa da ponte tra carcere e città. E io sono sempre Caterina, qui con voi per mezz'ora con Antonella Cortese. Ciao Antonella, bentornata. Ciao Caterina, buongiorno a tutte e a tutti. E iniziamo sempre dalle nostre notizie tra carcere e città. Oggi c'è questa notizia che mi ha veramente colpito. Pensa che è stato anche dedicato nel 2016 un reportage su Presa Diretta, il programma che va in onda sulla RAI, a cura di Riccardo Iacona, sulle prigioni in Norvegia. E c'è questa prigione, la prigione di Halden in Norvegia, che oggi è considerata la migliore al mondo, però non è sempre stato così, chiaramente. La prigione che è situata nel paese di Halden, tra i fiordi norvegesi, quindi posti bellissimi, progettata, pensate, da un architetto danese che si chiama Erik Moller, ed è stata inaugurata quasi 10 anni fa, il 1° marzo del 2010. Si tratta di un carcere davvero atipico, perché a quanto letto le finestre non hanno sbarre, non ci sono torrette di sorveglianza, non ci sono fili spinati, recinzioni, non ci sono nemmeno le telecamere e gli agenti non hanno le armi, quindi una cosa incredibile. Senti, ma prima di diventare il miglior carcere del mondo, immagino non fosse così proprio il sistema penitenziario norvegese, no? Guardi, dici benissimo, siccome anche quello norvegese era un sistema con diversi penitenziari, ecco, con diversi nodi scoperti. Pensiamo al tasso molto alto di detenuti con problemi psichiatrici, al fatto che nelle celle circolava la droga, che ovviamente i detenuti organizzavano proteste ed evasioni e furono anche uccisi negli anni Ottanta ben 3 agenti di polizia penitenziaria, e la recidiva era come in Italia, il 70%. Ma erano gli anni Ottanta questi, e accadeva quello che più o meno oggi accade ancora in Italia, con la differenza che negli ultimi 40 anni la Norvegia ha avuto il coraggio di fare una rivoluzione del sistema penitenziario, al punto da trasformare Halden, che potrebbe essere benissimo una nostra Poggio Reale, e portarla a essere il carcere più umano e vivibile al mondo, mentre da noi ancora, per dire, esistono problemi banali legati a come portare l'acqua nelle celle, nelle camere di pernottamento. Quindi, insomma, una bella differenza. Certo, Caterina, ci saranno stati anche investimenti economici per rendere il carcere così. Certo, allora, è indubbio questo. Alla base della rivoluzione norvegese sono stati investiti soldi, un capitale molto grande, anzi di 250 milioni di dollari nel 2010 per costruirla, ma devo dire che la spinta più forte è arrivata dalla svolta culturale. In che modo? Guarda, nel senso che c'è stata una svolta nella concezione del ruolo degli agenti e del ruolo dei detenuti stessi, che dovevano essere dinamici, per così dire. Per farti un esempio, gli agenti lavorano e mangiano con i detenuti, fanno sport e passeggiano insieme a loro. Questo è il concetto di sorveglianza dinamica che viene applicato nel carcere norvegese. L'agente quindi è diventato, oltre che una guardia, un operatore sociale. Quindi questo cambia molto, anche in prospettiva di come vivere assieme. Inoltre il carcere non è considerato un mondo a parte come qui in Italia, come dalle nostre parti. In Norvegia già dal 2008 è in vigore una carta bianca in base alla quale il sistema della giustizia deve essere incentrato su un'idea di normalità e di riabilitazione delle persone detenute. Quindi c'è un protocollo firmato da ben 5 ministri, che sono non solo il ministro della giustizia, ma anche quello dell'istruzione, della cultura, della salute e delle autonomie locali. Dell'istruzione perché i detenuti sono molto incoraggiati ad avere una vita molto attiva mentre sono in detenzione, quindi a scegliere tra il lavoro e la scuola. Possono specializzarsi in uno dei 7 corsi di formazione professionale offerti col rilascio del titolo di studio, oppure imparare a suonare uno strumento musicale. Quindi i detenuti di Halden non oziano in cella, quindi la struttura resta un luogo di reclusione, ma gli spazi della pena sono concepiti a misura d'uomo e soprattutto rispettano l'uomo in quanto persona con tutti i suoi diritti. Una cosa che però mi ha colpito, per rimanere sempre in tema di recidiva, che negli anni 80 era 70%, si è abbassata chiaramente anche con questa svolta culturale al 20%, che comunque non è un dato così basso come io mi sarei aspettata. Quindi forse anche in Norvegia della strada da fare ce n'è ancora. Ma rimaniamo con la musica, sempre con The Weeknd, che canta con Ariana Grande, una canzone bellissima, Save Your Tears, che io voglio dedicare a Sonia, un'amica, una teleradio ascoltatrice dal carcere della Dozza, che ha veramente una poesia, questa ragazza, e una profondità impressionante. Questa è per te, Sonia. Ci rivediamo tra pochissimo. E rieccovi, bentornati, sempre su Liberi Dentro e Radio TV. È il tuo turno, Antonella, parliamo di donne afghane, cosa c'è di nuovo? Caterina, parliamo dei volti coperti delle donne afghane, perché ho letto un articolo molto bello di Francesca Malnocchi, che ultimamente è corrispondente dall'Afghanistan e scrive veramente degli articoli meravigliosi, proprio sui volti delle donne che sono stati censurati con i burqa, ma addirittura ultimamente hanno tagliato le teste ai manichini esposti nei negozi. E lei si rifà a un filosofo che si chiama Emmanuel Levinas, e su un libro che ha scritto, che è Totalità e Infinito, che dice che la vera natura del volto, il suo segreto, consiste nella domanda che rivolge, che ha al contempo una richiesta di aiuto e una minaccia. Il volto è per Levinas un appello che chiama a prendersi cura dell'esistenza di un altro che ci interroga continuamente e ci chiama al rapporto nell'incontro con la radicale distanza da noi. E da quando sono tornati al potere, lo scorso agosto, i Taliban hanno imposto una interpretazione progressivamente sempre più rigida della legge islamica, vietando alle donne l'accesso all'istruzione secondaria in molte province, impedendo ai tassisti di accettarle in auto se non accompagnate da un parente di sesso maschile, ostacolando la loro presenza al lavoro nel settore pubblico, fatta eccezione ovviamente alle scuole primarie e gli ospedali, e bandendo la loro presenza da posizioni di governo e amministrative. E da ultimo, come vi anticipavo poco fa, i Taliban hanno anche ordinato ai proprietari dei negozi di Herat, la terza città più popolosa del paese, di tagliare la testa ai manichini esposti nei negozi, sostenendo che le figure dei volti femminili rappresentino una violazione alla legge islamica. È quindi un atto, diciamo, rappresentativo questo, un'azione politica. Io mi chiedo come viene giustificata. Allora, Aziz Rahman, che è il capo del Dipartimento per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio, ha rivendicato la decisione in una dichiarazione lasciata all'agenzia francese AFP e dice: abbiamo chiesto ai commercianti di tagliare la testa ai manichini perché contrari alla Sharia. Se si limiteranno solo a coprire il capo con un velo, l'angelo di Allah non entrerà nei loro negozi e nelle loro case a benedirli. Quindi il velo sembra non essere più sufficiente, dice Rahman. L'immagine del volto va eliminata, distrutta, e i negozianti ovviamente hanno obbedito, come mostra un video diffuso sui social media, un po' dappertutto, in cui appunto c'è questo gruppo di uomini che non si vedono, che sega le teste ai manichini per poi accatastarle uno accanto all'altro. È una continuazione ideale delle prime immagini, non so se te le ricordi, Caterina, che hanno segnato un po' il ritorno dei Taliban a Kabul, quando tutte le vetrine dei negozi venivano cancellati i volti delle donne. E, secondo appunto l'interpretazione del Corano, che vieta qualsiasi riproduzione o immagine di fattezza umano. Insomma, il corpo è tabù, dice la vernice scura che li copre e li censura, il volto è ancora di più un tabù. Prendendo un po' di più in un'interpretazione simbolica, che cosa c'è su quei volti che i talebani non vogliono vedere, quindi tolgono queste teste, ecco? Guarda, tornando a Levinas, il volto si sottrae al possesso, al mio potere, e disegna una relazione etica a partire dal volto. E infatti Levinas fonda la sua teoria dell'etica sulla società del faccia a faccia, l'uno davanti all'altro, con un volto che abbiamo di fronte che mai riusciremo ad afferrare per intero, riducendolo a noi stessi. È lì che giace proprio il presupposto delle relazioni umane, nella relazione con un altro che nel solo atto di manifestarsi ci mette in crisi. È interrogativo e limite nello stesso tempo, e nel suo essere così ostinatamente, radicalmente diverso da chi guarda, di fatto sfugge al possesso, è resistente alla presa. Il volto quindi resiste al possesso, resiste al potere delle armi. Puoi distruggermi, ma non puoi possedermi, pare dire. Non puoi appropriarti di me. E Mannocchi scrive anche che il destino delle donne afghane ha a che fare col potere degli uomini, e questo è abbastanza sottinteso, col potere espresso dai Taliban nella nuova società afghana che vogliono costruire, ma che ha a che fare anche con la responsabilità nell'affrontare i conflitti che l'Occidente ha smesso di combattere faccia a faccia. Come se l'atto del vedere, di affrontare il volto di chi si vuole oppresso o sconfitto, fosse la costante di ogni guerra ideologico-militare. Facci caso, ormai si combatte con i droni, non si guarda più in faccia il nemico o chi vuoi dominare. Per questo dovremmo forse prima di tutto sentirci parti in conflitto, tentare di conoscere il volto delle società che consideriamo antagoniste, affrontare sempre la responsabilità del faccia a faccia. Passiamo adesso però alla musica, torniamo ad Adele con Hello, che è un album del 2015, che dice Hello, can you hear me? In realtà noi dovremmo dire che Hello, can you see me? Per ricollegarci alle donne afghane. E poi non andate via, perché c'è la seconda parte dell'intervista a Nicoletta Hello. Nicolini di Avoc. A dopo. It's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you, talk about myself, I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So eccoci, bentornati sempre su Liberi Dentro Due Radio TV. Continuiamo dalla seconda parte della nostra puntata, sempre con l'ospite di oggi, che da ieri vi ho presentata, è Nicoletta Nicolini. Ciao Nicoletta. Ciao, ciao a tutti. Volontaria e veterana AVOC da tantissimi anni ormai, quasi 35 anni, proprio un'attività di volontariato fedele e continua, perché ogni settimana, da prima di sposarti, dopo il matrimonio, con i figli, hai sempre continuato ad andare in carcere a fare i colloqui. E proprio la domanda che ti volevo fare è proprio sui colloqui, perché sappiamo che il colloquio in carcere non è un colloquio normale, tra virgolette, è qualcosa di particolare, e io volevo proprio chiederti che risposta ti sei data tu su questo, che cosa rappresenta un colloquio in carcere? Ma io, a parte che ho avuto dei maestri eccezionali come Don Renzo, Suor Teresa, che mi hanno proprio accompagnato all'incontro con la persona, e così ho queste linee che non ho mai abbandonato, e che è proprio il colloquio è un fare vuoto, no? È un sopire i tuoi pensieri, è un proprio per accogliere l'altro, accoglierlo, ascoltarlo senza giudizi, con alcuni c'è solo delle richieste di una telefonata, di questo, di quell'altro, della casa, del lavoro, della comunità, eccetera. Con altri scatta un qualcosa di diverso, no? Nella fedeltà dell'incontro, si crea quasi uno spazio affettivo, di fiducia, non so, reciproca anche, proprio, e così nasce la relazione che è proprio un qualcosa per cui si cresce insieme. Per me il carcere e anche i colloqui in modo particolare sono stati una scuola di umanità grandissima proprio. E quindi è proprio un prendersi cura, ecco, l'uno anche dell'altro, perché è un arricchirsi insieme e dare anche un'opportunità nella libertà di poter fare delle scelte diverse, di poter cogliere i propri talenti, le proprie potenzialità. E sono momenti importantissimi, perché a volte sono l'unica anche occasione che hanno le persone che sono dentro e che non hanno colloqui di incontrare il mondo esterno liberamente. Non ci sono sintesi, non ci sono giudizi, quindi nella libertà, hanno bisogno di tanta libertà proprio. Nicoletta, c'è una storia, mi hai detto che alcuni colloqui sono più, diciamo, di richieste anche pratiche, altri invece sono colloqui più sentiti dove si instaura una relazione, no? E allora io ti chiedo se c'è una storia che ti porti nel cuore. Ma sono tante, sai, le storie che mi portano nel cuore. Adesso mi viene in mente così per questo flash, no? Perché tu trovi dei detenuti così che hanno una vita disastrata, che vivono in cella con un conte che non ha più conti in banca, perché o per vicissitudini familiari, ma anche per il vizio del gioco, ha perso tutto e si è trovato lì. E quindi mi viene in mente di questa persona che dal mondo luccicante proprio della bella vita si è ritrovato in carcere, in questo ambiente grigio, chiuso, ed aveva così il compito della pulizia. Lui doveva pulire, cioè era uno scopino, diciamo. E mi ricordo che io, quando arrivavo, lui lo vedevo di lontano, appoggiava la scopa, mi veniva incontro e con un inchino mi baciava la mano. Mamma mia, mi sentivo io. Non ero del suo, ecco, non ero una nobildonna, non facevo parte. Ed è stato sempre una cosa che mi fa sorridere ancora oggi, no? Di questo ladro gentiluomo, lo hanno chiamato, adesso non c'è più, così, ecco, mi è venuto. Oppure quello che, sapendo che avevano alcuni ladri scassinato la casa dei miei suoceri, lui mi descriveva come aveva fatto ad entrare nella loro casa per rubare gli ori della nostra famiglia. E cosa facevi? Sorridevi. Ecco, poi ce ne ho tante di storie diverse, proprio così mi è venuto queste da ricordare. C'è poi tutto un aspetto dei colloqui che è quello affettivo, perché i colloqui ovviamente non sono solo con il volontario o con lo psicologo o con l'educatore, ma sono chiaramente i colloqui molto più sentiti con la famiglia. Ma di questo parliamo domani, perché so che c'è una storia anche su questo che hai da raccontarci. Intanto lanciamo una canzone. Anche oggi abbiamo parlato di persone, dell'umanità dei colloqui, quindi la canzone che si può prestare meglio a tutto questo è Esseri umani di Mengoni. Ci rivediamo domani, Nicoletta, grazie mille. Grazie.